24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Siamo qui, sono le 6:33 minuti, mi sono dimenticato di accendere il microfono, portate pazienza ragazzi, ho dormito 4 ore, sono andato al concerto di Jovanotti a San Siro, un grande spettacolo, davvero, e dice chi se ne frega, niente, così vi do un'informazione, e no perché mi guardava subito Peter Bescapè in regia, il nostro grande alpino a dire ah il concerto di Jovanotti, e chi se ne frega noi, vabbè. Sì, non c'è la contraffine, però Milan sei proprio un coglione, ecco. Ma è possibile che sei un pia? Ma così lavori in radio e il mondo va così. Pazienza, che ci deve fare, caro signore, caro ascoltatore? Magari dura poco, non lo so. Così sarà contento. Vabbè, intanto saluto Elisabetta Fusconi in redazione e possiamo aprire il nostro Parlamento in modo che così salutiamo i nostri primi clienti. Io non lo voglio il caffè della Minetti. Ancora questa Minetti. E anche tu continui, anche tu però. I suoi favori? Strozzere col caffè della Minetti. Noi non lo vogliamo dalla Minetti. Vabbè. Brutto cretino d'un Milan. Vabbè. Carlo Rienzi, buongiorno. Lei è presidente del Codacons. Ha visto che bel clima che tira da queste parti? Buongiorno, no, che si riferisce? No, vabbè, questo è la Minetti, cretino, quello che mi... Vabbè, sì, vabbè. Siete fusi, va bene. Saluto Massimo De Manzoni, il vice direttore di Libero. Buongiorno Massimo, ben ritrovato. Buongiorno. Eccoci qua, allora, dobbiamo aggiornare la lista, caro Rienzi e caro De Manzoni, dobbiamo aggiornare la lunghissima lista degli insaputa in Italia, degli insaputismi italiani. Sapete l'ultima chi è? Massimo De Manzoni già lo so che lo sa, l'ha intuito. Rienzi sa chi è l'ultima? No. La ministra Josefa Idem. Io ho detto dovrà fare un'intervista. In questi casi, quando sei sotto il massacro mediatico, si decide un giornale, in genere abbastanza amico, e si fa un'intervista. Il giornale, indovinate qual è? Repubblica. Non sapevo dell'ICI non pagata. Il ministro Josefa Idem parla dopo 2 giorni. Massimo De Manzoni, voi fate 4 pagine oggi, le prime 5 pagine, dimettiti. Non sapeva. Avevamo intuito che la linea difensiva sarebbe stata questa. L'abbiamo scritto dal primo giorno. Era l'insaputa. Devo dire. Non l'ha portato benissimo. Dire a mia insaputa, effettivamente, Carlo Rienzi, non è che poi le vicende degli insaputismi siano finite benissimo, poi, politicamente parlando. No, ma c'è questo concetto del non poteva non sapere che usano i magistrati. Potrebbe usare anche qui, no? Certo. I magistrati, quando non sanno come incolpare qualcuno, non poteva non sapere. Non sapere. Qui è la stessa cosa. Stessa cosa. No, è finita. Capito, De Manzoni, capito? La storia è finita. Voi 5 pagine su. Cos'è che titolate oggi? Medaglia d'oro, faccia di bronzo. E basta, è finita così. Ha detto che non sapeva, basta. È un po' semplice così, però, cavarsela così nel momento in cui gli italiani sono alle prese con l'IMU, questo governo fa il tiramolla sull'IMU e poi si scopre che uno dei membri del governo se l'è autoridotto a sua insaputa, non è bellissimo. A sua insaputa. Sì, la questione è questa, la questione è questa, lei la spiega, è intervistata da Concita De Gregorio, intanto dice non mi dimetto, ecco questa è la cosa più importante. E poi ha detto avevamo io e mio marito 2 prime case a poche centinaia di metri, perché una è una casa palestra e io prima, siccome avevo i bimbi piccoli, prima di fare le gare andavo a dormire lì ed era proprio la mia casa. Ecco, però su una cosa devo dire, De Manzoni, sono abbastanza portato a credere quando Josefa Idem dice: ma io, scusate, facevo una vita da atleta in giro per il mondo, mio marito gestiva tutto, c'ho il commercialista, 2 mesi fa quando dovevo diventare ministro ho chiesto al commercialista è tutto a posto, mi ha detto sì è tutto a posto, tranquilla. Da questo punto di vista, Massimo, io non ho dubbi che forse lei si sia affidata delle persone e queste persone magari le hanno combinato qualche guaio, o no? Tutto è possibile. Io rilevo solo che, a parte il fatto che appunto aveva 2 case due prime case, di cui una non è, è una palestra in realtà. Ma ci sono altri profili che stanno emergendo che forse dovrebbe spiegare, ma chiaramente andando a fare un'intervista ai giornali amici si fa più fatica a tirare fuori tutte le cose. Brevissimo. Sì. Non c'è solo questo aspetto, c'è l'aspetto che quella casa dove c'era la palestra in realtà è una palestra. Oggi noi pubblichiamo le foto con i clienti dentro che vanno in singlette, vanno sui tappeti roulant e usano i macchinari. Che fa? Dormiva in palestra? Però questa casa qui intanto è una palestra che è stata catastata, che non è denunciata come tale, viene denunciata come abitazione. E questa è un'altra irregolarità, oltre a quella dell'ICI. Sì. La terza non è un'irregolarità, ma sono dei forti sospetti. Allora, se io ho una palestra e ho dei clienti che ci vengono dentro, qualcuno paga. Sì. Se questa palestra è un'abitazione, io non posso mettere fatture per questa palestra. Come è stata pagata questa palestra? Insomma, i clienti sono capito, Carlo Rienzi, altro che tutto finito. Qua Libero vuole la testa politicamente di Josefa Idem. Questo è il dato di fatto. Vado a fare ginnastica e vedere se la fanno pagare, no? Sì, ma mandate un inviato in maniera nascosta. Ma adesso l'hanno chiusa la palestra. Chiuso il sito internet, se è tutto regolare, perché hanno chiuso la palestra sito internet? Diciamo che dire, Carlo Rienzi, effettivamente in questo momento in cui gli italiani, voi al Codacos lo sapete, no? Perché un pochino su questo IMU ci hanno, o hanno avuto, poi chissà se verrà cancellata almeno la prima casa, hanno avuto qualcosa di cui arrabbiarsi. Siamo incavolati neri, oggi esce anche il nostro libro del Codacos, Dissanguati si chiama. Ah, questa la non la sapevo. La pratica per la tutela del consumatore. Dissanguati, il libro del Codacons. E questo perché siamo incavolati neri? Perché ci stanno chiedendo anche l'aumento dell'IVA che ci massacrerà, quando basterebbe togliere i 4 miliardi al Monte dei Paschi di Siena per rientrare di tutta l'IMU, per esempio, sulla prima casa. Cioè, ci sono delle cose che non si capiscono veramente, cioè, ma come si può dare i soldi alle banche che poi non danno prestiti? Le aziende chiudono, le piccole e micro ovviamente, perché non vanno in banca e quelli dicono ma no, veramente non abbiamo soldi, soldi, ce li hanno presi dall'Europa all'1% e dove li hanno inguattati? Abbiamo fatto pure una denuncia alla Procura di Roma che dorme. Adesso si sveglierà la procura di Roma, svegliatevi che il Codacos ha fatto questa denuncia. Allora, intanto mi dicono, mentre vi devo far sentire un audio, De Manzoni, il motto degli insaputisti qual è? Ci scrivono via SMS: Socrate, so di non sapere. Potrebbe essere questo, so di non sapere, Socrate, il motto di molti italiani, molti insaputisti. Ma sentite, Pierluigi Pellegrin, che è un giornalista di Radio Padania, addirittura cosa va a insinuare su Josefa Idem, altro che voi di Libero, senti. Io mi sono sempre stupito, cade il muro di Berlino nell'89, a Dresda hanno trovato un palazzo per le sperimentazioni scientifiche sulla medicina sportiva, pauroso da dottor Goebbels, cose inaudite. Questa signora ha fatto due Olimpiadi con la Germania Est, questa signora viene dalla Germania Est, questa signora fa l'Olimpiade a 48 anni, la settima, nessuno che sollevi l'ombra del dubbio? Nessuno che se... De Manzoni, altro che l'IMU qua, non sei mica... Non ha vinto mica le medaglie grazie ai mostri di alla Goebbels della Germania Est. Come atleta, è stata una grande atleta. Mette insieme delle date, dice, è nata nella Germania Est, ha fatto delle Olimpiadi, si è saputo, poi, questa volta non insaputa, ma si è saputo che questi molti atleti, per carità, e nessuno viene il dubbio, addirittura? Ma ha fatto anche molte Olimpiadi, ha fatto molti controlli antidoping, non è mai stata criticata. Dovremmo cominciare a dubitare di lei. Io, fino a prova contraria, non esiste. Non esiste, va bene. No, atteniamoci alle sue case che sono già belle che sufficienti. Comunque ha detto, non mi dimetto, questa è la notizia vera. Ma ce la farà a resistere alla vostra botta mediatica quotidiana? Perché Rienzi, questi qua adesso bastoneranno ogni giorno, no? Finché sia la notizia questo mi pare un po' da ridere, perché il fatto che non si dimetta sia la notizia. Perché in Italia qualche volta qualcuno si è dimesso, Beh, poi alla fine. Non posso ridere, eh? Beh, magari all'inizio no. Non mi dimetto, lo dicono tutti. Poi dopo, magari con le pressioni, con le campagne. Infatti, a un certo punto dell'intervista dice: io voglio fare questo, eccetera. Ma se capisco che la pressione mediatica, che di qui, che di là, che di su, che di giù, non sono qui certo a, come dire, attaccata alla poltrona. Quindi libero, se voi continuate, mi sa che alla fine ce la farete. E vabbè, di cosa parlano i giornali, Renzi, secondo lei, politicamente, tutti attaccati alla questione Berlusconi? Dopo, non solo, è un dopo 5 stelle, poi, insomma, sì, cioè, sì, ma soprattutto. Sì, ma soprattutto Berlusconi, adesso che succederà l'ineleggibilità. Sentite anche ieri il premier Enrico Letta quando ha incontrato la stampa estera. Sentite cosa ha detto. Lo so che tutto ciò che coinvolge Berlusconi per voi è fantastico, perché vi consente di scrivere lunghi articoli, mentre le cose pallose che vi racconto io nel merito dei provvedimenti sono molto meno vendibili alla vostra pubblica opinione. Un po' è così, De Manzoni, diciamola chiaramente, è così anche lo stesso Letta, scherzando, dice: io vi dico cose pallose, poi appena Berlusconi, tac, subito, no, articoloni su tutti i giornali. Sicuramente dal punto di vista mediatico Berlusconi è un fuoco d'artificio. Certo. Sia attivo che passivo, cioè quello che fa e dice lui, e soprattutto quello che fanno e dicono contro di lui, diventa tutto molto sopra le righe, quindi per i giornali e per i media in generale è molto interessante. È una manna. Sono molto interessato anche a quello che dice lei, per dire la verità, come cittadino, soprattutto per il discorso delle tasse di cui parlavamo prima, perché poi c'è una cosa che a me fa impazzire, per esempio l'ineluttabilità dell'IVA. È una delle cose che mi stanno mandando fuori di testa. E certo, ho fatto due conti. Noi abbiamo fatto due puntate qui a dire: siamo tutti gli italiani hanno le ricette. Togli le province, togli le regioni, tassa la prostituzione, taglia le consulenze. Tutti sanno come fare, tutti tranne quelli che devono fare. Io dico un'altra cosa ancora. Io dico: l'ultima volta che abbiamo aumentato l'IVA dal 20 al 21, erano previsti, mi sembra, 6 miliardi di 4 miliardi, scusa, introito fiscale in più. Ne hanno incassati 5 in meno. Adesso, con questa stessa progressione geometrica, ed è matematico, perché gli italiani, se gli aumenti il prezzo dei prodotti, compreranno di meno, quindi incasseranno di meno, aumenteranno di un punto l'IVA per recuperare 2 miliardi e ne perderanno 4. Certo. Fare qualcos'altro. Ma attenzione, perché con le tasse non è finita. Dopo il traffico vi devo raccontare questa che ho visto sul Sole 24 ore. Renzi, si tenga forte, perché ce n'è una sulle tasse che sta arrivando. Tra l'altro mi scrivono molti messaggi a dire: Daniele da Padova, Danilo da Bologna, che ci scrivono: Patrick, ma no, tra l'altro non è neanche nata in Germania Est, è nata in Germania Ovest, ma che minchia ha detto quello di Radio Padania? È nata pure in Germania Ovest, ma ha fatto fare una figuraccia. Vabbè, il traffico, poi entriamo con la segreteria telefonica. 24 mattino. Se condannano Berlusconi, Gasparri e tutta la Cambricola vogliono andare via. Oddio, come sono disperata. Ma Berlusconi non ha due avvocati che paga 400 euro all'ora? Ci vogliono anche i difensori delle cause perse e quelli là? Dio, come sono disperata. Le caculi di merda. Caro Mila, non è che tu mi sia molto simpatico, comunque su alcune cose devo darti ragione. Purtroppo, sperare che questa classe politica possa fare qualcosa di buono per l'Italia, assolutamente no. È come fare lo sciampagliato, ci si rimette acqua e sapone. Allora, appella Gasbarri, che se Berlusconi, visto che non è innocente, è stato già condannato due volte, e loro si dimettono tutti, ma quanti soldi risparmiamo? Quanti meno buffoni stanno là dentro? Come che ci sono i soldi per loro, ci devono essere anche per noi. O mangiamo tutti o casa tutti. Sono Francesco da Torino. Vorrei dire solo una cosa, ma un paese meglio dell'Italia, dove tutto e tutti fanno quello che vogliono, dove si trova nel mondo? Good morning, se Frau Hidemi volesse veramente essere orgogliosa delle sue origini, dovrebbe dare delle dimissioni. Ne sarà felice il popolo tedesco, Deutschland über alles. E gli italiani sarebbero stupiti, sorpresi e quasi quasi anche felici, perché è una persona che va fino in fondo alle cose. Insomma, anche questo nostro ascoltatore di lingua tedesca, Deutschland über alles, De Manzoni, è un po' dalla vostra parte, si dimentica. Allora, udite, udite, Carlo Rienzi, si è tenuto bene, è seduto? Sono pronto. È tranquillo? Tranquillo. Sicuro? Guardi che poi si arrabbia, Sapete una parte delle coperture, leggo sul Sole 24 Ore per la precisione, 75 milioni della copertura del cosiddetto decreto del fare, che poi è un decreto del dire, si sa, da dove vengono? Da dove vengono, Carlo Rienzi? Dai soldi delle associazioni. No, aumenta, no. Aumenta l'accisa su benzina e gasolio, la tassa, ci piazzano una nuova tassa, insomma, per fare il decreto del fare, che è un decreto del dire per il momento, invece di fare ci piazzano una tassa. Ma così è facile, Rienzi. A parte che si stanno prendendo pure i soldi delle multe antitrust che la legge deve dare alle associazioni dei consumatori che non hanno un euro, e quindi un altro furto, e vediamo che succede. Ma qui le tasse sono l'aumento dell'RC auto, l'aumento della benzina continuo, cioè queste sono le tasse dei poveri, cioè sì, di quelli che ogni giorno escono e sono costretti ad andare a lavorare con la macchina, a pagare la bolletta e così via. E poi Petruzzelli si lamenta all'antitrust dicendo che c'è poca concorrenza, ma non basta lamentarsi, cioè non è possibile, cioè abbiamo 4 milioni di persone che non hanno l'assicurazione della macchina perché non la possono pagare, questa è una cosa folle. Questa è la nuova tassa, 75 milioni di copertura è Massimo De Manzoni, dall'accisa su benzina e gasolio. E anche lì con le ultime accise aumentate gli incassi fiscali sono diminuiti, perché ancora una volta gli italiani lasciano la macchina in garage e si muovono meno, anche perché hanno meno lavoro per cui andare in giro. È una follia, stanno facendo esattamente il contrario di quello che hanno fatto gli Stati Uniti, che è l'altra notizia del giorno, è che gli Stati Uniti stanno uscendo dalla recessione, sono fuori quasi dai problemi, aumentano i tassi di interesse perché l'economia sta riprendendo e quindi ci drenano anche tutti i soldi, dovremmo aumentare anche tutti. Loro hanno fatto una ricetta completamente diversa dalla nostra e ne stanno uscendo. E noi continuiamo a ammazzarci via tasse, accise, aumenti e tutto quanto, e tra un po' saremo lì che saremo di nuovo nella merda fino al collo, perché tutti i soldi andranno negli Stati Uniti, dove i tassi di interesse salgono e quindi gli investitori avranno interesse a investire. Stiamo facendo delle cose da pazzi. No, ma il dato di fatto, che per carità è una copertura di 75 milioni del decreto di fare, una copertura parziale, ma dove vanno a trovare? Ma è il principio, ma certo, dove vanno a trovare? L'accisa. Quindi mettono una tassa a tutti per fare le cose che dovrebbero fare loro. Vabbè, che dire, voglio solo chiudervi raccontando, poi in rassegna stampa la vedremo meglio, alle 7.15 c'è una consigliera di circoscrizione del PD a Prato, Caterina Marini, che si è lasciata, siccome i ladri, qualche ladro è entrato in casa della sorella, che cosa ha scritto su Facebook Rienzi? Ha scritto: che città di merda, extracomunitari, ladri, stronzi, dovete morire tutti subito. Di solito queste cose le fanno i leghisti, no? Che poi, invece questa del PD si è sfogata. Se posso raccontare, noi abbiamo fatto una pubblicità che sta sul sito nostro per il 5 per 1000 di un consumatore nudo di schiena, bruttissimo poveraccio, come sono i consumatori di frutta eccetera, con un cartello dietro dicendo: nuovo governo, parati il Q. Vuol sapere, Repubblica non l'ha pubblicato perché vuole una bella ragazza o un bel giovanotto ed è troppo sgradevole questo consumatore così grasso e brutto. Il Corriere della Sera, perché la parola culo è volgare. C'era scritto C. Noi l'abbiamo trovato su Corriere della Sera, pubblicato 10 volte in un mese la parola culo. Vabbè, insomma, comunque, vabbè, questo Facebook bisogna stare un po' più attentini a questo Facebook, a cosa si scrive, soprattutto se si ha un ruolo pubblico, anche se consigliere di circoscrizione. Vi ringrazio, grazie a Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, e Carlo Rienzi, presidente del Coda Cons. Siamo pronti a dare il giornale radio? Sì, ci ritroviamo dopo le 7.

Vabbè, è il momento del premio per l'articolo più inutile del giorno, lo vince il Corriere oggi, Paola Pollo, siamo a pagina 31 del Corriere, mezza pagina, Carlà e i 200 alla festa dedicata a Liz Taylor, una festa organizzata per la straordinario nuovo gioiello Bulgari nel chiostro medievale a Portofino, si è presentata anche Carlà Bruni Sarkozy, meravigliosa, altera, attenta, ha cambiato tre abiti, taglior bianco, poi un abito da cocktail blu e infine in lungo, tre cambi. Si è aggirata tra i tavoli, con lui anche Adrien Brody, mistero sulle altre persone, ma certo brillano décolleté, mani, lobby, le meraviglie di sete, chiffon, che lasciano tutti senza fiato. Il pranzo light, trofi al pesto, branzino, sorbetto e poi il dolce, e attacca la voce di Diana Ross, I will survive, applausi, balli e brilli, altro che sopravvivere. Corriere della Sera, la carta costa, come dico sempre, e il premio è a voi per oggi, e andiamo al giornale radio. Ventiquattro mattino. Sono le 8 e 17 minuti, eccoci, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, siamo qui, cari ascoltatori, a raccontare che cosa. Intanto vi do il numero verde per intervenire, come sempre, 800 24 0024. Ci sono delle storie che dove è molto facile giudicare, per carità, sono arrivati anche noi messaggi su Facebook, su Twitter, quando abbiamo annunciato il tema e la storia che vogliamo raccontarvi oggi, anche messaggi molto duri, molto cattivi. Oggi vogliamo raccontare la storia che è finita sui giornali di un ragazzo di Genova, si chiamava Giuliano Del Nevo. Dopo essersi convertito all'Islam, e questo succede per molte persone come scelta personale, lui, dopo aver preso il nome di Ibrahim, ha deciso però di fare imboccare una strada molto radicale. È andato in Siria a combattere a fianco dei cosiddetti ribelli, quelli anti-regime di Damasco, ed è stato ucciso. Il dibattito in Italia è stato subito derubricato molto frettolosamente, insomma, un terrorista per alcuni, per altri un idealista invece romantico, uno che ha scelto una strada, ha creduto fortemente in una cosa, sbagliata, giusta, quello che volete, però è andato a rimesso con la vita questa sua scelta molto radicale. Noi vogliamo iniziare a raccontare questa storia, più avanti, ricordo, ci sarà anche il padre di Marco Del Novo, il padre di Giuliano, ai nostri microfoni. Prima intanto però voglio salutare e ringraziare il procuratore capo di Genova, Michele Di Lecce. Buongiorno procuratore, grazie. Buongiorno. Per essere con noi, perché lei ci può confermare, questo ragazzo era indagato per che cosa in Italia? Sì, il Del Novo era indagato da po' di tempo ormai per due ipotesi di reato che però non erano ascritte o ascrivibili soltanto a lui, ma anche ad altri soggetti che ovviamente continuano ad essere indagati, anche se va detto subito che della morte di questo ragazzo noi non abbiamo ancora nessuna notizia ufficiale, quindi sappiamo quello che è comparso. Le ipotesi di reato che erano state iscritte erano quella prevista dall'articolo 270 del codice penale, cioè l'associazione sovversiva, e l'altra, il 270-quater, e cioè l'arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Beh, queste sono, ovviamente su queste indagini, certo, su queste ipotesi erano in corso le indagini. Tra l'altro, procuratore, lei dicendo che non c'è la conferma ufficiale vuol dire che queste indagini rimangono in piedi, perché non si ha la notizia ufficiale della morte in realtà di questo ragazzo. In effetti c'è stata una pubblicizzazione di queste indagini per questo evento, però le indagini continuano nei confronti degli altri, e al momento, almeno finché non avremo una conferma ufficiale, anche inevitabilmente nei confronti del soggetto. Senta, reclutamento vuol dire qualcosa di molto grave, cioè l'accusa, l'ipotesi di reato era che questo ragazzo non solo si fosse convertito, ma poi reclutasse persone poi in grado di compiere anche degli attentati terroristici. Messa così è un'accusa molto pesante. Beh, queste sono sono le ipotesi previste per indagini di questo tipo dal codice penale. Ovviamente poi i termini vanno riempiti di contenuti e quindi di per sé stessa la lettura lessicale di un termine significa fino a un certo punto. Il problema è comunque ricostruire dei percorsi e dei comportamenti per evidenziare eventualmente se da questi comportamenti, da questi percorsi sono nate attività di proselitismo finalizzate ad atti di violenza o di terrorismo. Procuratore, è la finalità, certo, che conta. Non c'era una possibilità di fermare questo ragazzo? Per esempio la madre, rimaniamo sempre diciamo nell'ipotesi più accreditata, come racconta i giornali, che questo ragazzo sia stato veramente ucciso in combattimento. La madre dice: perché la procura, che aveva sicuramente il telefonino sotto controllo, immagino fosse controllato negli spostamenti, non lo ha fermato prima di questo suo viaggio in Siria? Al di là della possibile veridicità o non delle affermazioni della madre, il meccanismo di fermare non si capisce in che termini si poteva fermare, perché questo, come gli altri indagati, erano e sono liberi, e quindi non esisteva una possibilità di un provvedimento coattivo, per esempio limitazione della libertà personale per poterlo arrestare. Evidentemente non avevamo elementi per poter adottare un provvedimento. Ma neanche sapendo, cioè lei ci può confermare, almeno questa è notizia, che sapete che si è spostato in Siria, oppure anche questa notizia è totalmente, diciamo, non ha... Questa già emergeva, sì. Cioè che lui fosse in Siria, questo almeno è una conferma che ci può dare. Dire perché si era spostato in diversi paesi, aveva avuto vari movimenti negli ultimi tempi, però questo non significa ovviamente che questi movimenti fossero finalizzati a quel tipo di attività. Senta, ieri sul Secolo XIX è apparsa una sorta di rete dei cosiddetti jihadisti italiani di Del Nevo, al di là delle indagini sulle quali chiaramente lei non può entrare come procuratore capo, però ci aiuti a capire se è davvero, come questa rete raccontava, un fenomeno diffuso e quindi anche un fenomeno preoccupante, o se riguarda poche persone, che poche schegge impazzite che purtroppo possono esserci ovunque. Ma io credo che non, per quelle che possono essere le mie conoscenze, non ci sia una rete così articolata e diffusa, ma anche perché probabilmente con i mezzi di comunicazione odierni non c'è neppure bisogno di avere una rete articolata e per così dire strutturata secondo concetti tradizionali di un centro e delle articolazioni periferiche o comunque organizzate. L'avvicinamento a movimenti, a scelte religiose, politiche, può avvenire attraverso canali molto meno strutturati e molto più semplici da raggiungere, e quindi credo che non ci sia nemmeno l'esigenza di avere una rete di questo genere. Per di più, credo che episodi di questo genere siano certamente numericamente, almeno per quanto riguarda l'Italia, limitati, tenendo conto peraltro che nello scenario internazionale fatti di questo genere sono già accaduti praticamente in quasi tutti i paesi del mondo. L'ultima domanda è questa, procuratore: lei ha sentito ovviamente il padre, che tra l'altro sarà tra poco ai nostri microfoni, ha definito un gesto eroico, comunque una persona di cui andare molto orgoglioso, è questo della via. Visto quello che erano le ipotesi di reato, lei come si sente di giudicare invece la scelta di questo ragazzo? Ma io ovviamente non posso giudicare la scelta del ragazzo al momento, per così dire, finale al quale si riferisce il padre. Il padre credo di capire che faccia questa affermazione sulla base delle informazioni che avrebbe ricevuto telefonicamente. Io non so se effettivamente l'eventuale morte del ragazzo sia avvenuta in quelle circostanze. Se è avvenuta in quelle circostanze può essere più comprensibile, se è avvenuta la valutazione del padre, se non fosse avvenuta in quelle circostanze potrebbe essere meno comprensibile, ma in ogni caso quello che per noi è rilevante non è non sono le scelte individuali o i valori che si possono dare a determinati comportamenti. Ma quello che ha fatto, quello che ha fatto. E ovviamente non avevamo ancora elementi di prova e non abbiamo ancora elementi di prova sufficienti per concludere le indagini. Certo che come riuscire a reperire la certezza di questa notizia sulla sorte del ragazzo è un po' misterioso, perché il giornale ha svelato questa notizia, ma voi come potrete avere notizie da un fronte così difficile come quello della Siria? Sapevate che era lì, ma poi... dei contatti evidentemente anche tra le forze di polizia, i servizi e soprattutto le autorità diplomatiche e consolari, quindi qualcosa ovviamente prima o poi dovrà essere comunicato in via più ufficiale. Sulla sorte di Giuliano Del Nero. Sulla sorte, anche se possibile su quello che stava facendo o non stava facendo in Siria, certo, in questi ultimi tempi. Allora, intanto, procuratore, la ringrazio per essere stato con noi, il procuratore capo di Genova, Michele Di Lecce, grazie davvero. Sono le 8:27 minuti, noi ci dobbiamo fermare per qualche minuto di pubblicità. Poi sarà ai nostri microfoni Marco Del Nevo, è il padre di Giuliano Ibrahim Del Nevo. Io ripeto, ascoltatelo, poi giudicate, i microfoni sono aperti, 800 24 00 24, è il un signore che secondo le notizie ufficiali ha perso un figlio, è stato ucciso in combattimento, ha definito la sua morte, siccome come sono state date le notizie avrebbe tentato di salvare una persona che era finita sotto le mire di un cecchino dell'esercito siriano, secondo racconti che provengono dalla Siria, Giuliano sarebbe uscito per cercare di trarre in salvo questo suo amico perché era molto legato a lui e quindi è stato ucciso per questo. Per questo il padre dice è morto in maniera eroica cercando di salvare una persona con cui era molto legato. Era lì in Siria a combattere dopo che si era convertito all'Islam e tra poco il padre racconterà la sua storia. 24 mattino. Eccoci cari ascoltatori, le 8:33 minuti. Allora, come detto, vogliamo raccontare la storia di Giuliano Del Nevo. Abbiamo il padre con noi, lo ringrazio per essere intervenuto, è Marco Del Nevo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Senta, intanto lei non era in collegamento poco fa, il procuratore capo di Genova, Michele Di Lecce, ha detto che a quanto risulta la procura una notizia ufficiale della morte di suo figlio non c'è. Voi in famiglia come avete saputo di questa notizia? Ma abbiamo saputo in questo modo, alle 7:20 del mattino, circa 7:10, 7:15 del mattino del giorno 13, è squillato il mio telefono, con il numero di mio figlio, il numero siriano di mio figlio, col quale mi chiamava e sul quale io normalmente richiamavo subito usando Skype. Purtroppo mi trovavo in un posto in quel momento dove Skype non l'avevo disponibile e il mio telefonino non mi permetteva di chiamare. Allora in questo caso ho chiamato la nonna di Giuliano, mia suocera, gli ho detto: signora, per cortesia chiami Giuliano, lei che può, e perché mi ha chiamato, mi sembrava inusuale l'ora, perché di solito chiamava quando chiamava sempre più tardi. E dopo poco mia suocera mi ha richiamato e mi ha detto: guarda che qui parlano in inglese, io non capisco, vieni. A quel punto ho capito che qualcosa doveva essere successo, perché Giuliano parlava sempre lui, il telefonino evidentemente ce l'aveva qualcuno. E chi, ecco, chi era il telefono? Chi era? Ecco, sono corso, ho richiamato, mi ha risposto una voce d'uomo, era il leader, il comandante di mio figlio, che parlava un inglese tutto sommato corretto, e mi ha detto guarda, tuo figlio è caduto. Io gli ho detto: come è caduto? Dice: sì, è caduto. Vuoi dire che è morto? Dice: sì, purtroppo è morto. E poi devo essere grata a quest'uomo, perché nonostante la notizia terribile, nonostante che mi parlasse per telefono, mi ha detto cose molto consolanti. In quel momento forse ha respirato, ma mi ha detto cose che in qualche modo mi hanno confortato. Cioè, tipo, non devi essere triste per tuo figlio sarà sempre con te, parlava sempre di te, ti voleva bene, cioè, frasi queste molto umane, devo dire. Lei in una prima intervista, signor Marco, ha detto questa frase Carlo, che... Carlo. Mi scusi, sì, questa frase che è rimasta molto scolpita, dice: mio figlio è morto da eroe, perché le è stato raccontato che ha cercato di salvare un commilitone, diciamo. E non è una frase un po' forte per la scelta che aveva fatto? Ma guardi, se l'eroismo deve dipendere dall'ideologia che uno abbraccia, non so, mi sembra un po' discutibile come approccio. Cioè, se lui si fosse battuto, che so, per la democrazia americana, sarebbe stato un eroe. Se invece uno si batte come si è battuto lui per l'Islam, non lo è più. Cioè, non dipende dal coraggio e dal gesto che è stato un gesto di grande altruismo, perché come mi ha spiegato il suo comandante, Giuliano era al riparo quando ha visto questo suo commilitone, suo caro amico, poi abbiamo anche saputo che era un suo caro amico, giacere per terra, non ha esitato un attimo a uscire dal suo riparo nel tentativo di riportarlo dentro. Lei, signor Carlo, come giudica, visto che l'ha tirata in ballo lei, questo paragone, che chiaramente è un paragone forte, cioè battersi per la democrazia occidentale, per la democrazia degli Stati Uniti o per la democrazia dell'Italia è una scelta eroica, secondo alcuni, mentre battersi per quello per cui si batteva suo figlio non dovrebbe esserlo. Lei, per esempio, parlava suo figlio delle guerre che abbiamo fatto in Iraq, della missione attuale in Afghanistan, della vicenda della Libia? Beh, lui era assolutamente, come si può ben capire, ovviamente contrario a qualsiasi intervento militare NATO al di fuori dei confini. Però anche in questo non è stata la sua vicenda, che so, del talebano John, che è stato beccato, lui americano, a combattere contro gli americani. Sì. Lui questa cosa non l'ha fatta, e vorrei che fosse... Però il procuratore capo, come lei ben sa, c'era una inchiesta che peraltro è ancora tuttora in corso, perché il procuratore ci ha detto: finché non c'è una notizia certa della morte non possiamo archiviare nulla. Era indagato come reclutatore di possibili terroristi. Ma guardi, io l'ho già detto in altre mie dichiarazioni, personalmente non lo credo, ma non perché Giuliano anche a me mi aveva chiesto di convertirmi all'Islam, ecco, perché lui ci credeva, e ci credeva molto, ecco, era sicuramente la sua parte, ma non era nel suo, diciamo, nella sua struttura, nel suo DNA, nel suo carattere, cercare di far proseliti, soprattutto per cose che potevano condurre a una guerra, ecco. Avrebbe potuto probabilmente, avrà sicuramente cercato di convincere gente a convertirsi alla religione islamica, che non è assolutamente un reato. Questo non è un reato, ovviamente, ecco. Come non è un reato convertirsi all'Islam, ovviamente, è una scelta personale, però lui è andato a imbracciare le armi, è una cosa, per una causa nella quale credeva, questo non stiamo a giudicare la causa, però lui stesso che criticava gli interventi armati ha fatto questa scelta molto forte, cioè imbracciare le armi, combattere. Allora, quella di imbracciare le armi e combattere è una scelta che purtroppo hanno fatto in molti in epoche diverse dell'umanità. So, mi viene in mente l'analogia, prima che mi viene in mente, quella della guerra di Spagna. Sì. La Siria un po' la ricorda. Dove molti andarono, si arruolarono per allora, fare che so, Luigi Longo era uno che aveva sbagliato, cioè... È molto difficile poi dare dei giudizi, cioè come si tende a fare adesso, dare dei giudizi di valore a seconda della scelta cosiddetta di campo che ma infatti questo sì, io ho fatto la premessa, signor Carlo, a dire noi prima di giudicare vogliamo ascoltare, infatti siamo qui ad ascoltare. E che pensa per esempio di tutti i giudizi anche molto sprezzanti, trancianti che sono arrivati? Guardi, ne sono arrivati anche noi in redazione quando abbiamo detto domani tratteremo questo tema su Twitter, a dire ma un terrorista in meno, di che cosa vi occupate? Un terrorista musulmano in meno, ecco, è stato definito così da alcuni suo figlio. Ma guardi, non mi metto neanche a polemizzare, cioè per me terrorista è una persona che terrorizza, no? Cioè, analizziamo la parola, terrorizza come? Terrorizza mettendo, non so, una bomba in un caffè dove la gente inerme si reca, oppure dirottando un aereo di pacifici turisti chiedendo in cambio qualcosa, oppure, cioè, possiamo farne mille esempi di questo. Questo è un terrorista. Cioè chi coscientemente, a prezzo della propria vita, non di quella di altri, cioè si mette in una guerra dove, attenzione, non spara contro anime belle, perché forse ce lo dimentichiamo, ma spara contro l'esercito di un tiranno sanguinario che opprime quel paese ormai da due generazioni, cioè c'era prima ancora suo padre. Cioè, definire una persona così terrorista, secondo me, è profondamente sbagliato per tenermi basso. Lei perché non lo ha fermato o ha provato a fermarlo, visto che ha detto la chiamava tutti i giorni dalla Siria a dire ma che stai facendo? Cioè, crederai in questo, ma insomma stai facendo una guerra che non è tua, che forse senti tua, ma perché stai sbagliando? Lui la sentiva profondamente sua, intendiamoci. Sì, questo comunque è chiaro. Adesso le dico anche, le rispondo a questa sua domanda. Io ovviamente come padre ho sempre cercato di trattenerlo, fargli cambiare strada quando mi rendevo conto che lui era troppo affascinato da una certa versione dell'Islam. Però e poi in seguito, una volta partito, che l'ha fatta a mia insaputa, me l'ha detto a cose fatte, come era spesso nel suo stile. E quando me l'ha detto, la prima cosa che gli ho detto: Giuliano, per favore, torna indietro, Dio mio, torna indietro. Poi questo ragazzo io lo conoscevo come le mie tasche, perché avevo un rapporto molto profondo con lui, e ho saputo che non c'era, ho capito che non c'era niente da fare, che lui questa scelta in lui era molto molto ben motivata e radicata, conoscendolo molto bene. Ho evitato di usare toni perentori che sarebbero stati inutili e non avrebbero portato a nulla. Senta. Però ho sempre cercato, anche magari con un po' di ironia, con un po' con lo scherzo, di dire: Giuliano, torna indietro. Una volta mi ha detto, sai, perché parlavamo a lungo, e dice, sai, qui il Kalashnikov è un fucile d'assalto. E io gli sento, ma perché un fucile da ritirata non ce l'hai da ritirata fino a Genova? Cioè, e lui rideva, perché poi, tra l'altra cosa di Giuliano, che voglio ricordarlo, era un ragazzo dotato di sense of humor, no? Adorava i Griffin e i Simpson, tanto per capirci. Vabbè, questo, cioè, era tutt'altro che un tipo cupo, eccetera. Però appunto io gli dicevo queste cose nel tentativo di suaderlo, certo, di convincere a tornare. Ma questa era la sua convinzione. Allora facciamo così, signor Carlo, ci sono le informazioni sul traffico, tra un minuto rientriamo, ci sono anche tanti ascoltatori ovviamente che chiamano, qualcuno lo passeremo tra un attimo. 800 24 00 24, siamo con Carlo Del Nevo, che è il padre di Giuliano, che è morto in Siria per aver scelto di andare a combattere con i ribelli. Eccoci qui, allora, alle 8:47 minuti, con Carlo Del Nevo, il padre di Giuliano Ibrahim, come si era convertito, si chiamava così, Del Nevo, che è andato in Siria. Vorrei sentire Oscar da Torino, ci ha chiamato. Oscar, buongiorno. Dica. Pronto? Sì, la sentiamo, Oscar, dica. Buongiorno Milan, io volevo solo essere solidale con i genitori di Giuliano, con il signor Carlo, che ho ascoltato con molta attenzione. Penso che l'atto di Giuliano sia un atto intanto di coraggio, perché io ho un figlio di 28 anni e so quanto quella generazione è, mi passa il termine, incazzata, perché sente il peso del... Ma che coraggio, c'è di abbracciare un fucile e andare? No, cioè, si può combattere in tanti modi, contro le ingiustizie. Questo è vero, però quello è un atto di coraggio, mi permetto. Avete fatto l'esempio della guerra di Spagna. Ah beh sì, dal punto di vista del coraggio puro, certamente è coraggioso prendere in mano un fucile e andare a combattere. Secondo me, al di là del fatto di andare a combattere, che cosa non farei, perché abborro le armi e la violenza, ma il concetto è un altro. Il fatto di lasciare tutto quello che un giovane può lasciare a casa sua, l'abitudine, l'amicizia, insomma, e andare in Siria. Siria è un pensiero che ho io tutti i giorni, là ci sono delle ingiustizie palesi che durano da anni. Quindi questo per me è un atto di coraggio, al di là dell'atto di eroismo che non conosco, non è quello il punto. Io volevo semplicemente intanto essere solidale con quei genitori. No, ma è chiaro, questo l'ha detto. Non dimentichi, e poi dica Oscar. No, chiudo, semplicemente perché conosco il travaglio di un ragazzo che più o meno aveva la stessa età e che, per mia fortuna, mi passi il termine, non ha avuto quel coraggio. Va bene, grazie Oscar. Teniamo sempre sullo sfondo, e non dimentichiamolo, lo ripeto anche al signor Carlo, che il procuratore capo di Genova ci ha dato un profilo. Ovviamente non c'erano accuse specifiche, ma le ipotesi di reato nei confronti di suo figlio poi non hanno avuto seguito, ma l'inchiesta era ancora in piedi, era quella invece di essere un reclutatore di possibili terroristi. Poi chiaramente lei, signor Carlo, dice: io non credo a questa vicenda e a questa indagine. Sentiamo Filippo da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Dica. E dunque, no, ritengo incomprensibile il gesto di questo genovese di andare a combattere in una guerra non sua e poi di abbracciare una religione che il musulmana radicale, insomma, quando noi occidentali, tra cui l'Italia naturalmente, siamo sempre soggetti ad attacchi, all'ostilità di questo radicalismo musulmano. Quindi lo considero un gesto incomprensibile, diciamo, per essere diplomatico, l'indice di una grande sprovveduto, diciamo, mentalmente, insomma, no? Vabbè, lei non condivide, non capisce proprio per niente, anche perché dice Filippo, signor Carlo, dice Filippo, ha imbracciato anche un radicalismo islamico, mettiamola così, perché la parola terrorismo lasciamola fuori, perché non si ha, ma radicalismo, però sì, radicalismo nel senso etimologico di scelta radicale, di andare poi a combattere. Lei però li legge i giornali, insomma, si parla di reti di jihadisti, ieri per esempio raccontava il secolo XIX, oggi c'è un altro padre che viene intervistato dal giornale e che in qualche modo le rivolge un appello, dice: io mi sento assai vicino ai genitori di Giuliano, la sua storia ricorda quella di mio figlio, un signore belga intervistato dal giornale che dice: anche mio figlio è in Siria in questo momento, non so dove, e sono molto vicino ai genitori, e dice questo padre, gli fanno lavaggiare il cervello, l'hanno prima, diciamo, convertito in maniera, insomma, magari sfruttando qualche debolezza, qualche momento di smarrimento. Può essere successo anche a suo figlio questo? Ma guardi, io sono profondamente, credo profondamente nella libertà intellettuale delle persone in generale e in quella di mio figlio ancora di più. Cioè, come devo aver già detto, ma lo ripeto, non sono stato affatto contento di questa sua conversione all'Islam, però non ho mai creduto un attimo che questa cosa gli fosse stata in qualche modo imposta con una specie di lavaggio del cervello, cose di questo genere. Io penso che Giuliano, cioè sarebbe stato 10.000 volte più contento se Giuliano, che so, fosse entrato in un seminario cattolico, visto che aveva Non è stato così, quella scelta non la condivido, perché se la condividessi sarei ad esempio musulmano anch'io, se non addirittura, che so, avrei fatto anch'io la jihad, però la rispetto, Io tutto quello che dico e che vorrei, quando si parla di mio figlio, al di là delle banalità che ho appena sentito, no? Cioè penso che questo ragazzo meriti rispetto. Cioè nessuno vuole che si dica di lui, che so, che aveva ragione, bravo bis, o facciamo tutti come. Però le dice rispetto perché ha perseguito una scelta, ha creduto perché in qualcosa. Ha perseguito una scelta. Ma cosa voleva fare? L'ha pagata con la propria vita. Ma cosa, ecco. Cioè, visto che lei lo sentiva, senza mettere in ballo la vita di innocenti. Certo, ma visto che lei lo sentiva, che cosa cercava lui veramente in Siria? Semplicemente la sua strada, cioè questa la mia realizzazione è questa? Cercava la sua strada, come mi ha ripetutamente detto, frasi che riporto testuali, papà, qui in Siria è la mia via, qui lui sentiva questa cosa con una forza straordinaria, ripeto, non lo so, è un mistero questo, l'ho detto anche in altre occasioni, è una cosa molto misteriosa, no, la storia di questo ragazzo. E io l'accetto come tale, dico non la posso spiegare, umanamente non me la spiego, ero andato anche a Lourdes a chiedere alla Madonna che me lo salvasse, proprio come cattolico, perché io poi sono un cattolico praticante, non è stato così, è un dolore immenso che ho, però devo accettare questa scelta e non mi posso barricare dietro giustificazioni così scappatoie mentali del tipo me l'hanno traviato, perché è troppo facile, capito? No, questo violerebbe tutto il rispetto. Il genitore belga non lo condivido. Quello che dice il genitore belga? Sì, quello che mi dice. Beh, però quella è, come lei ben sa, è in nome della libertà individuale, magari invece quella storia raccontata da quel genitore potrebbe essere anche una storia di una persona traviata. No, questo non... Non lo so, però cioè, aderire all'Islam è un atto di volontà, è un atto intellettuale, un atto di fede. E come si fa a pensare che a meno che uno non sia un minus abens, un ebete, una persona fragile, allora sì, però Giuliano non era questo il caso. Io, signor Carlo, mi devo fermare qui. Intanto la ringrazio per essere stato con noi. Ricordo Carlo Del Nevo è il padre Giuliano. Tutta la sua, il suo racconto lo potete ascoltare già tra pochi minuti sul sito radio24.it. E che dire, ci fermiamo con Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Vi diamo appuntamento a lunedì prossimo alle 6:30.